Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sound check numero 284. Diamo il via qui dal Groove Master Studio. Buonasera a tutti voi collegati con Radio 24 e collegati con il Groove Master Studio da Gegè Telesforo. Buonasera anche alla nostra Silvia Barba, particolarmente emozionata questa sera perché ascolterà dal vivo quello che io considero se appartenesse a una tribù indiana lo avrebbero senz'altro chiamato voce tuonante. Esatto, buonasera a tutti, buonasera a Gegè e buonasera al nostro amico Sergio Mancinelli. Ecco, hai svelato le carte, Sergio, che bello averti qui. Buon anno. Ecco, senti, buon anno. Buon anno perché siamo in tempo, indubbiamente potremmo essere in tempo in qualunque giorno dell'anno per augurarcelo, però siamo ancora in tempo. Buon anno Gegè, buon anno Silvia, buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio 24 che è una delle due stazioni fisse della mia autoradio. E sono contento. Allora, Sergio, sai perché sei qui da me? Perché diventa per il lavoro, insomma, per gli impegni che ognuno di noi ha, difficilissimo incontrarci. Allora mi sono detto, forse per incontrare Sergio, il mio amico Sergio, invece di invitarlo a cena, lo invito direttamente a fare radio con me, anche per ricambiare il tuo affetto che molte volte hai dimostrato, soprattutto quando ci sono state le mie pubblicazioni discografiche. Insomma, non ti sei mai tirato indietro e mi hai ospitato nei tuoi programmi. Io oggi ricambio presentando ai radioascoltatori appassionati di musica di Radio 24 quello che io considero uno dei più preparati professionisti della radio del nostro paese, grande appassionato di musica, talmente appassionato di musica che molte volte mi sono chiesto come mai non hai fatto il musicista. No, non l'ho mai fatto, però poi penso che sia stata una fortuna, perché fare questo lavoro alla radio, poi scrivere per tanti anni anche sui giornali, da musicista avrebbe forse un po' rovinato, perché scatta sempre quel qualcosa, quella critica che è tipica da musicista, quell'andare a cercare il pelo nell'uovo, poi a volte le simpatie o meno. Io mi sono sempre tirato fuori, per cui il fatto di non suonare è estremamente penalizzante. Chi suona, e lo vedo con mio figlio indubbiamente, ha un grande vantaggio, non solo perché conosce una lingua che gli permetterà di essere davvero cittadino del mondo. Ma ho sempre ritenuto la musica una grande fortuna. La musica aiuta il musicista, aiuta l'uomo, la donna che suonano a non sentirsi mai soli. Per cui questo mi manca. Il resto ho cercato di colmare la lacuna di non saper suonare con il fatto di ascoltare tanto e vedere anche il mio orecchio piano piano nel corso degli anni modificarsi anche lo stato d'animo, modificarsi i miei gusti, aprire a qualcosa che prima ritenevo ostico. Allora, chi è cresciuto come me andando per la prima volta a vedere a 15 anni da solo un concerto dei Jethro Tull, naturalmente non poteva entrare in un repertorio del jazz con grande facilità, per non parlare poi successivamente di tutto il repertorio classico. Però ho visto che piano piano l'orecchio trasmette vibrazioni al cuore, al dentro, e piano piano queste vibrazioni hanno incominciato ad aprire anche un po' i miei piccoli cancelli e i miei piccoli steccati musicali. Ecco, questa è una cosa molto bella, mio caro Sergio, cioè il fatto di non avere preclusioni, di non essere in qualche modo settari con la musica, perché la musica è bella ed è tutta importante. Certamente noi che facciamo questo lavoro a un certo punto dobbiamo fare delle scelte. I tuoi programmi sono sempre stati vicini alle sonorità più rock rispetto ai miei e per un bel periodo, per 5-6 stagioni, ci siamo dati il cambio. Esatto. Nella radio con la quale tu continui la tua collaborazione trasmissione che è Radio Capital, ed è stato un momento molto bello perché in 4 ore gli appassionati di musica passavano tranquillamente dai classici del rock alle cose contemporanee al jazz e al versante black. E questo manca nella radio italiana di oggi. Non ci siamo fatti mancare nulla. Poi negli anni a me è scattata anche una grande passione, come anche per te, per il blues e in tutte le sfaccettature del blues. Guarda, si parte da quello. È quello. E poi la canzone italiana, la canzone d'autore e non solo, perché io per anni, quando scrivevo negli anni 70, inizio anni 80 di musica su un po' di questi giornali che c'erano all'epoca, scrivevo principalmente proprio di musica italiana. E allora in quelle 4 ore che noi avevamo, davvero c'era l'universo mondo musicale, senza mai nessuna preclusione, il nuovo. E poi sai, dice, che cos'è il nuovo? Vabbè, ne riparliamo tra 2 minuti a proposito del nuovo. Chi ha detto blues? Qualcuno ha detto blues? Chi? L'hai detto tu? Era nell'aria. Aretha Franklin, Dr. Feelgood, perché tu sei il mio Dr. Feelgood oggi, Sergio. Thanks. Per celebrare la nostra amicizia e la nostra comune passione per il blues, Dr. Feelgood, la regina Aretha Franklin, qui con Sergio Mancinelli, ospite del soundcheck di questa sera su Radio 24. Sì, parlavamo del blues, l'importanza del blues. Siamo dei grandi appassionati di blues e dal blues arriva tutta la musica anche contemporanea, partendo dai Beatles e Rolling Stones, che hanno iniziato suonando blues alla maniera dei neri per poi scrivere canzoni pop. Ecco, una cosa che ci accomuna ancora, mio caro Sergio, vista l'età e gli anni di militanza nell'ambiente musicale italiano. Tu hai fatto televisione, l'ho fatta anch'io, poi abbiamo scelto invece la radio. Personalmente vado a fare anche i miei concerti e la mia musica. Ma la cosa che ci accomuna è il fatto proprio di aver vissuto un passaggio importante per la nostra generazione, il passaggio dall'analogico al digitale. Quanto sei digitale? Sono sufficientemente digitale. Ma senti che voce, è impressionante. Sono digitale a sufficienza. Diciamo che il famoso sei striminzito che si prendeva a scuola. Cioè, come va? Poi arrivavano i genitori, come va mio figlio? Beh, il ragazzo potrebbe fare di più se si applicasse, però la sufficienza la strappa. Allora, con la tecnologia il mio rapporto è questo. Certo, la cerimonia del vinile mi manca. Adesso cerimonia non ce n'è. Ecco, parliamo della liturgia dell'ascolto. Prendevi il disco, lo direi. Perché dici è importante? Sei nostalgico? No, perché comunque ti preparavi a qualcosa. Adesso dici, sai, si può trovare tutto quanto. Gli ascoltatori mi dicono, aspetta, fai un passo indietro. Ti preparavi a qualcosa, perché c'era il momento proprio di levare dalla busta il vinile, c'era tutto. Ti preparavi a sospendere il tempo. Non avevi certo il telefonino, WhatsApp o qualcos'altro. Quel tempo era dedicato soltanto al disco. Prendevi la puntina e tornavi indietro. Allora, quando alcuni ascoltatori mi dicono, perché non pubblichi le scalette? Ma non le pubblico, no. Perché la radio va ascoltata. Se io, ecco, dopo Dr. Feelgood, mi venisse in mente di mettere una... Becca Stevens? O anche una cosettina. Allora, nel filologico della serata ci può stare, ma se tu leggi una scaletta, no, non va bene. La radio è fatta per ascoltare. La webcam, perfetto, va bene. Ma io non faccio la televisione. Noi facciamo la radio. La radio te l'ascolti in silenzio mentre viaggi, mentre ti metti gli auricolari, mentre corri. Mi commuovo proprio, guarda. Perché, allora, se gli ascoltatori, quando c'era la webcam, cosa stai leggendo? Magari c'avevi un giornale aperto. Ah, ti sei messo il dito nel naso. E ho capito. Ascolta. Soundcheck. Il suono della musica. Il giovane talento inglese di Adi Suleiman in State of Mind qui al Soundcheck di Radio 24. Dove l'hai scoperto questo? L'ho scoperto con la tecnologia, mio caro Sergio. Con la tecnologia e anzi trascorro dei bei momenti andandomi a cercare questi giovani artisti, andando a sbirciare, che so, su Bandcamp, SoundCloud, ma anche altre cose. Poi ho mia figlia che ha 11 anni e è una youtuber professionista. Cioè, non è che una youtuber, lei è una seguace dei youtuber e quindi ogni tanto mi fa vedere cose nuove. E allora posso suggerirti e suggerire, certo, anche a chi è all'ascolto, Anderson East. Segna Silvia, perché se lo dice Mancinelli Anderson East ha fatto buon. Il disco completamente in analogico, vista che me lo dicevi prima, agli studi della Fame con tutta la sezione Fiati, Stax e quanto 22 anni con un disco in cui è difficile andare a trovare un pezzo brutto. Se, sai quando tu dici fammelo trovare, poi scatta la sfida, no? Scrivi, perché poi ce lo scordiamo. Allora Silvia, scrivi pure Anderson East. Altro disco carino potrebbe essere J.J. Gray and Mofro. Oh, perfetto. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, ti è capitato anche di fare tanta televisione? No, intanto voglio ricordare agli amici in ascolto, la voce è unica e riconoscibile, sì, perché Sergio Mancinelli è il nostro ospite oggi per parlare di musica, per in uno studio accoglientissimo, devo dirlo. Grazie, per parlare della nostra amicizia, per parlare di radio, ma anche di questo strano rapporto che tu hai avuto con la televisione, perché c'è stato un momento che tu l'hai frequentata abbastanza, un po' perché in televisione si parlava di più di musica. E forse perché anche tu stavi cercando, cosa che è successa anche a me, un certo tipo di successo anche con l'immagine. Poi hai capito che invece la tua voce con la radio andavano proprio a nozze. Ecco, che rapporto hai oggi con la televisione? Perché non hai più fatto televisione? Non pensavo e non avrei neanche mai pensato di fare la televisione. Il mio desiderio da bambino era far la radio. Allora, in questa casa degli anni 60 a Roma, nel soggiorno c'era un impianto, cioè un mobile con degli sportelli scorrevoli. Da una parte c'era la rastrelliera dei 45 giri, poi c'era la radio e sotto un giradischi. Durante le notti estive io prendevo un paio di cuscini, mi mettevo sul marmo con l'orecchio vicino all'altoparlante e mia mamma mi dava la possibilità di rimanere sveglio. Non capivo nulla di quello che succedesse, però in onde medie dalle 8 di sera arrivavano anche le stazioni, a volte d'oltreoceano, stazioni inglesi. Non capivo nulla. Capodistria, la ricordi? Sì, esatto. Sentivo soltanto la musica che nella radio della RAI di quegli anni era davvero molto poca e mi addormentavo sdraiato per terra con la radio che continuava a trasmettere musica. Quando sono nate le prime radio private, dopo pochi mesi ho bussato vicino a casa, c'era una piccola radio, ho fatto un po' di apprendistato. Il 30 ottobre del 76 ho fatto il primo programma alla radio, che era un programma di musica, richieste e di dediche, che comunque bisogna saperle far bene anche quelle poi. E da lì tanti altri programmi alla radio. Quando c'è stato la possibilità di fare questo provino per Disco Ring, lo feci, vinsi il provino e mi ritrovai catapultato in un mondo che conoscevo in parte. Io ho iniziato già a fare concertone. Che anno era quando hai fatto Disco Ring? Disco Ring ho cominciato nell'83, però il primo programma... E avevi delle partner, no? Avevo delle partner, sì. Chi erano? Era Anna Pettinelli, l'anno prima c'era... Lei è diventata una professionista della radio, la salutiamo. E poi prima, come dicevi tu, c'era anche molta musica, perché quello è stato, diciamo, l'exploit. Prima avevo fatto dall'80 all'83 questo programma concertone sulla terza rete televisiva e non c'era mai stato un programma di musica rock di concerti. Per cui vedevo questi concerti, li tagliavamo, nel senso che concerti di 2 ore dovevano poi diventare di 1 ora, scrivevo i testi e li presentavo. Praticamente, se mi avessero dato anche una scopa da una bottarella allo studio prima di andare via e mettevo a posto tutto facevo da solo. E poi la televisione, bella la televisione, le serate successivamente, però non era il mio mondo, assolutamente. Io desideravo parlare di musica, poi di musica si è incominciato a parlare di meno e la televisione si è trasformata in un intrattenimento continuo. L'intrattenimento continuo va anche bene quando poi salvi la qualità, l'innovazione e il miglioramento. Nella televisione questo non esiste, esiste soltanto la ripetizione continua dello stesso schema. Allora chi come noi ha la possibilità di lavorare in un media importante come la radio non può fare tutti quanti i giorni lo stesso programma e lo stesso schema. Puoi avere un'architettura, ma dentro l'arredamento lo rinnovi di giorno in giorno. Hai una grande possibilità, che è quella di scoprire in continuazione. Se abdichi a quel ruolo, finisce il lavoro. Io sono tutti i giorni, come te, alla ricerca di brani nuovi, di storie nuove, certo. Di artisti nuovi, di percorsi nuovi. Quello è quello che mi interessa. La radio, per fortuna, me lo dà. Ecco, io per esempio seguo la radio attraverso la televisione, cioè a casa ascolto la radio attraverso Sky, no? Che ti dà la possibilità di poter seguire tutti i canali radiofonici di tutte le stazioni e quindi in qualche modo utilizzo la televisione per ascoltare la radio. Succede anche, ormai è una consuetudine da diversi anni a questa parte, che in radio sono arrivati anche i volti della televisione, certo. Gente che non ha mai fatto radio che si sente che questo lo dici tu, si sente che però, aspetta, aggiungo, è parecchio. Ecco, e vengono utilizzata quindi il loro nome, la loro fama, perché si pensa che in qualche modo possano portare nuovi radioascoltatori. D'altro canto, la radio in televisione, sono stati fatti degli esperimenti, non ha mai funzionato tanto. Insomma, che facciamo? La radio è il suono, non è l'immagine. Soundcheck. Il suono della musica. Parlavamo dell'importanza del blues qualche minuto fa con Sergio Mancinelli, e anche Donald Fagen dal capolavoro The Night Fly con Ruby Baby dimostra la sua passione per il genere. Che disco questo, ha segnato le nostre vite senz'altro. Non ce l'aspettavamo. Un capolavoro assoluto. Non ce l'aspettavamo. Ecco, anche lì la sfida. Vai un po' a trovare un pezzo brutto in quel disco. No, non c'è. Non c'è. Non c'è, no, un disco curatissimo nei testi, negli arrangiamenti, produzione. E ogni volta che l'ascolti, no, se provi a concentrarti, io questo è un disco che mi ha permesso di fare una palestra di ascolto. Allora, ho cominciato a sentire non soltanto Ruby Baby che abbiamo appena ascoltato, ma anche tutti gli altri brani di The Night Fly, e a ogni ascolto mi concentravo su uno strumento, per cui facevo un ascolto e sentivo e seguivo solo la batteria. Vedi. Poi, che dovevi fare il musicista, questo rimettevo, è l'ascolto che fanno i musicisti. Rimettevo la canzone da capo, mi concentravo sul basso, poi sulle tastiere, per cui quella canzone l'ascoltavo 5, 6, 7 e poi la riascoltavo nell'insieme. La botta che dà dopo, quando senti tutto e proprio li percepisci, perché un conto è sentire, diciamolo, va, e un conto è ascoltare. Assolutamente sì. Silvia Barba, ti vedo affascinata. Quanta passione, quanta energia, siete davvero formidabili insieme, ed entrambi, devo dire. Se chiudo gli occhi e ascolto le vostre voci, insomma, è una grande emozione per me. Grazie. Io ho una domanda da farti. Se c'è ancora, secondo te, uno spazio nella radio inesplorato, dove c'è qualcosa che ancora si può dire e di originale, soprattutto, abbiamo parlato della televisione, no? La radio può ancora, ha ancora un potere in questo senso? Pausa di riflessione. Credo che, guarda, il problema della radio e anche quello della televisione per molto tempo è stato quello di essere estremamente stanziali. Tutto quanto succede all'interno dello studio, no, tutto quanto succede in giro per il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter realizzare a Radio Capital un sogno che avevo da sempre, cioè andare a fare la trasmissione a casa degli ascoltatori. Ah, lo ricordo benissimo, grande e allora, idea. E allora dissi, a me non interessa che voi abbiate 10, 100, però te li andavi, te li sceglievi, no? Radioascoltatori appassionati di musica che avevano i dischi. Noi abbiamo, guarda, facemmo questa cosa qui, ho detto non è importante che abbiate 10, 100, 1000 dischi, l'importante è che abbiate dei dischi a casa, anche se pochi. Io voglio venire a casa vostra e mettere la radio in tinello, in cantina, in soggiorno, in soffitta, dove volete voi, e far la radio, prendere dagli scaffali quei dischi e mandarli in onda. Non è importante che siano dischi, voglio sentire la storia di quei dischi. Sono arrivate oltre 1600 adesioni, poi abbiamo scelto naturalmente, dovevamo sceglierne alcune, siamo partiti da Trento e siamo finiti a Canicattì con 90 puntate. Ecco, esplorare la radio vuol dire... sicuramente sì, mettere l'asticella e cercare di spostarla quasi ogni giorno. Le idee poi arrivano. Indubbiamente la radio fuori, mi piacerebbe adesso poter andare a fare la stessa trasmissione, sai con che cosa? Ognuno di noi ha un lettore MP3 nel telefonino, allora andare in giro per Roma, arrivare, che ne so, a Via del Corso, a Piazza Navona, come a Piazza San Babila, fermare qualcuno con il microfono e dire scusa, mi fai collegare al tuo telefonino, fammi sentire che ascolti. È quello che faccio io però, Io lo faccio, no? Ogni tanto andiamo in giro, facciamo le interviste, incontriamo amici, colleghi nei teatri, nei backstage, nei bar. Senti, mettiamola lì al dottor Napoletano, magari, che prossimamente potremmo anche fare queste cose qui, divisi in due parti d'Italia. Tu ti fai una zona, io l'altra. Glielo stai dicendo. E in interconnessione facciamo questo programma qui, innovativo per la radio. Glielo stai dicendo perché il direttore ascolta tutto. Allora, visto che stiamo per andare anche all'informazione, ci arriviamo con uno dei miei brani preferiti. Non è recente, ma io ho conosciuto questa band qualche mese fa, esattamente a New York. Me li ha fatti ascoltare Leo Sidran, il mio amico. Tre bellissime ragazze, si chiamano King. Il brano è Supernatural, una meraviglia. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Groove Master Studio per la seconda parte del soundcheck di Radio 24. Dopo l'informazione ritroviamo comodamente adagiato sulla sua poltroncina il nostro Sergio Mancinelli. E chi si muove più da qua? Ma infatti tu puoi restare, adesso noi finiamo di fare la puntata. Sì. E poi andiamo a cena, così continuerai a raccontarmi aneddoti che per me sono fonte di ispirazione. E infatti vorrei che tu raccontassi agli amici Radio 24 quello che mi stavi dicendo adesso, perché sì, gli incontri radiofonici. Eh sì, perché facendo questo lavoro incontriamo professionisti, artisti, musicisti, giornalisti, però è bello anche portare in radio appassionati di musica che raccontano loro passione attraverso visioni e prospettive diverse. Me l'ha fatto venire in mente Silvia prima quando mi chiedeva se c'è spazio anche per... Mi piace perché parte alla grande, vai. Se c'è spazio per qualche cosa di innovativo alla radio. Allora, per me è la radio della condivisione. Condividere il proprio sapere, le proprie esperienze. Allora, Pippo Zappalè è un neurologo molto importante a Catania per 12 anni. Pippo invece ha esercitato negli Stati Uniti, tra Memphis, Indianapolis, Washington. E allora l'ho invitato in radio perché un giorno mi aveva parlato del cervello e della musica. Ho detto, senti, vieni in radio e racconta agli ascoltatori cosa succede nel nostro cervello quando ascoltiamo la musica. E allora lui ha raccontato, se ascoltiamo soltanto un brano strumentale, possa essere Pink Floyd, possa essere Dave Brubeck, possa essere un pezzo di Chopin, si attiva un emisfero. Quale? L'emisfero sinistro. Emisfero sinistro. Mentre se noi ascoltiamo un pezzo di De Gregori, di De André, di Fossati, di un cantautore, si attiva l'altro emisfero perché scorporiamo la musica dal linguaggio che diventa prioritario. Le emozioni che se ne ricavano sono diversissime. Ho capito tutto, allora. Mi ha fregato l'emisfero sinistro. Mi ha rovinato. Vabbè, andiamo avanti. Sì, ci sono anche milioni di italiani che la pensano ugualmente sull'emisfero sinistro. Lo è so, una delusione lo so, provata. Il bello è questo, che il mondo è vario e anche la musica, no? Un altro ascoltatore, Ugo, ad esempio, che è un professore di economia a Torino, mi ha parlato dell'economia dell'invidia, che già dall'antica Roma esiste. In questo esperimento che hanno fatto a Torino hanno messo tre persone. Questo sempre per parlare di incontri. Esatto, tre persone a giocare con appunto delle macchinette, diciamo. E a un certo punto hanno chiesto: saresti disposto a rinunciare a una parte della tua vincita pur di non far vincere l'altro? Tutti e tre hanno detto sì immediatamente. Per cui l'economia dell'invidia si basa, diciamo, su queste sensazioni. Altra cosa, un'altra ascoltatrice, che è una professoressa di filosofia alla Bicocca a Milano, l'ho invitata a parlare del silenzio. Parlare del silenzio alla radio sembrerebbe un ossimoro. E invece ci sono tante canzoni. Tu l'hai suonato il silenzio alla radio? Sì, una volta. Vabbè, magari lo diciamo dopo, non so. Sì. Lasciamo stare. E il silenzio è importantissimo. Prima, perché se non ci fosse il silenzio non ci sarebbe neanche la musica. La musica deve incominciare dal silenzio. Se non hai nulla di importante da rompere il silenzio, è meglio tacere. Buona regola per tutti i radiofonici. Ma poi il silenzio può essere due grandi cose. Il silenzio è o negazione o intimità. Mi piace questo concetto, l'importanza del silenzio, è importantissimo il silenzio, le pause in musica sono fondamentali. Molto spesso invece i musicisti, soprattutto i più giovani, sono portati a fare più note di quelle richieste. Andiamo alla musica, mio caro Sergio, e ti faccio ascoltare il sound dei Floating Points. Li ho annunciati al plurale, però poi si tratta di una persona. È un DJ producer che studia anche lui insieme a insomma degli altri dottori di ricerca. Proprio lui è laureato in neuroscienze del dolore, quindi parlavamo un po' delle sensazioni che possono essere, che possono provenire dalla musica. Lui sicuramente le ha studiate a livello scientifico. Lui è Sam Shepard, londinese, con questa faccia pulita e con gli occhialetti, ma insomma è un grandissimo producer che ha, dopo tanti successi, finalmente ha fatto uscire il suo album. Eccolo qui, Floating Points con Silhouettes al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola semplicemente Mucho Lio, il nuovo album del mio amico Lio Cidran, figlio d'arte, figlio di Ben Cidran, eccellente producer discografico, ma anche uno dei più importanti producer di commercials lì negli Stati Uniti. È diventato talmente bravo che è riuscito anche a comprarsi un palazzetto a Brooklyn, nella zona bella di quel meraviglioso quartiere newyorkese, e ultimamente ha avuto anche il tempo di realizzare questo album dove suona tutti gli strumenti. Un vero talento, quello di Lio Cidran, After the Damage is Done, dopo che il guaio è stato fatto. Questo è il titolo di questa sua composizione. E devo dire, una fortuna il fatto che da musicista conosco tutta una serie di personaggi a destra e sinistra, e poi andando in giro per il mondo. Sono 30 anni che conosci Ben Cidran? Beh sì, sono 30 anni che frequento bene. Tra l'altro, quando eravamo in tournée insieme, vivevo negli Stati Uniti, lì a Madison, Wisconsin, dove lui ha la sede della sua casa discografica. Suo figlio aveva 13-14 anni e già lavorava sul computer come un ingegnere del suono rodatissimo. Oggi è diventato un producer di fama internazionale. Pensa che in quel programma che ti accennavo prima, che era Concertone, presentammo, immagino, per la prima volta in televisione. No, devo sempre, sì, stiamo sì, in radio, bisogna sempre in televisione. Sì. Non si chiamava neanche Rai 3, si chiamava ancora Terzo Programma Televisivo. Concertone. Allora, dicevi, a Concertone? A Concertone io feci quasi 150 puntate. E uno di questi concerti fu proprio quello di Ben Cidran, acquistato dalla televisione tedesca. Acquistammo delle cose dal Rock Palace, molti altri concerti, e c'era anche un concerto di Ben Cidran che fino a quel momento non era mai apparso in televisione in Italia. Poi a renderlo più noto ci hai pensato tu. Sì, perché lo invitammo ad hoc al signor Cidran con tutta la band, e lì abbiamo fatto amicizia, e devo dire che è una persona eccezionale. Ultimamente abbiamo anche collaborato per una produzione discografica, ma ne parlerò quando sarà il momento di farlo. Siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, la nostra Silvia Barba, affascinata oggi dalla presenza quasi mistica di Sergio Mancinelli, una sorta di apparizione. No, è bello perché di Sergio conosciamo, io lo conosco, per cui siamo amici da tanti anni, però capisco che per alcune persone il suono di una voce, dare il volto a una voce, ha qualcosa di magico. Non so, vedi che sono tutta minuta qui, mi faccio piccola e vi ascolto, perché è molto interessante. Tra l'altro io lo ascolto sempre a Radio Capital, nel suo programma Sentieri Notturni, mi accompagna spesso a casa, al rientro. Grazie. E volevo sapere, se io sono così affascinata, oggi a te cosa affascina ancora della radio o della televisione? C'è qualcosa che ancora ti sorprende? La radio tutto, la televisione non la vedo più, insomma, gliel'hanno tolta proprio. Sì, non ho proprio più anche a casa, quando durante il venerdì Radio Capital sempre, il sabato ascolto la radio, se vado su alcune radio la sera magari straniere, però se sono a casa invece, voglio dire, da Barisoni in poi mi piacerebbe, guarda, che cosa? No, mi piacerebbe fare una trasmissione anche una sera con Barisoni. Io lo ascolto spesso, mi piacerebbe capire quali sono i suoi gusti musicali. Qualcosa credo di averlo intuito, però mi incuriosisce molto parlare di tutt'altre cose. Ti dicevo, no, mi anima tanto, mi sorprende ogni sera quello che succede alla radio, è una magia. È una magia. Già avere persone che a quell'ora decidono, ecco, di non vedere la televisione, tantissime coppie anche molto giovani. È vero che la televisione gioca a nostro favore con tutto quanto quello che fanno, la radio se ne può avvantaggiare. È vero. E la ricerca questa sì. Abbiamo ripreso a fare magari la radio a volte in alcuni cambi come si faceva negli anni 70, senza mettere dei liner, senza mettere jingle, senza mettere promo. Quando finisce un pezzo, su quell'accordo trovare il brano che ci stia meglio, di modo che se sei all'ascolto, se sei in macchina, se sei a casa, senti la magia di quella. La magia di Derrick Hodge con Alan Hampton in Holding Onto You al Soundcheck. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Il suono ormai inconfondibile di Hiatus Keyote dall'Australia con furore, forse ormai da 3-4 anni a questa parte in Australia ci tornano soltanto per andare a trovare i parenti e fare una passeggiata nell'Outback, perché Hiatus Keyote sono perennemente in tournée, grandi successi negli Stati Uniti e anche in Europa. Il brano che avete ascoltato era Fingerprints, una band di quelle, una band contemporanea ma con il rapporto old school con la musica. Musica perché si sente quando una band si chiude in studio o nella saletta e fa le prove, quanto sono importanti. Io volevo chiedere al mio amico Sergio Mancinelli, che oggi è ospite del nostro Soundcheck, quanto è naturale prima di andare di affrontare una diretta e quanto si prepara adesso, dopo lo dicevi, hai quasi, quest'anno festeggi 40 anni di attività, 40 anni di sì. Airplay, e quanto ti prepari ancora oggi prima di affrontare il microfono in radio? Tantissimo. Ecco. Oh. Non potrei farlo. Ora, sappiamo io e te perfettamente, no? Ecco, tu hai preparato oggi pomeriggio già tutto quanto, voi avete preparato la scaletta, avete preparato le notizie, avete preparato anche questa intervista nei miei confronti. Potevate anche voi, e voglio dire con l'esperienza che hai, non preparar tutto, anche per me, andare in diretta una sera, vuoi che non riesca a fare due ore? Mi sono preparato ad affrontare l'incontro professionale con un amico. Naturalmente l'ho reso, l'ho improvvisato, esatto. Improvvisato perché la jam session verbale. Improvvisi, però è come la cucina. Allora, ognuno può cucinare immediatamente un piatto di spaghetti e qualunque cosa, però se tu incominci a preparare il trito prima, incominci a metterti non le foglie di prezzemolo ma i gambetti sottili sottili fini fini tagliati, prepari tutti quanti gli ingredienti, poi dopo si tratta soltanto della cottura e del metter sul piatto. Allora, se il piatto funziona vuol dire che la preparazione prima c'è stata. Io non potrei non preparare nulla, andare a cercare ogni sera delle storie diverse. Prima dicevamo cose vecchie e cose nuovo, molti pensano che il nuovo sia quello datato, adesso 2016. No. Sì, ma anche perché la routine mi ammazzerebbe, no? Ti devi preparare perché sono ancora una persona curiosa personalmente, tu. Ma che scherzi? Ma tu immagina, se senti per la prima volta Thick as a Brick dei Jethro Tull, se senti per la prima volta un pezzo dei Doors, e quello è un pezzo del 1969, ma tu lo ascolti per la prima volta adesso, è nuovo. È nuovo, assolutamente. E no, se soprattutto anche per i ragazzi, esatto, della nuova generazione. Ma ti dirò di più, se anche ascolti Roadhouse Blues in un determinato contesto, è rinnovato il tuo stato d'animo di quel momento. È allora quello che vai a prendere, saper rinnovare anche l'ambiente radiofonico di sera in sera. Se produci e proponi sempre la stessa cosa, poi cambi, ma ogni sera hai degli stimoli, gli stimoli per crearli li devi andare a conoscere, non puoi rimanere senza conoscere, leggere, ascoltare, sentire, incontrare. Sei tu che mi stimoli, Sergio, tu devi venire più spesso qui a trovare, puoi venire quando vuoi, guarda. Ma l'invito è reciproco. Grazie. Allora, per stimolarti io ti faccio ascoltare una delle band preferite di Silvia Barbara. Hola. New Yorkesi, forse non lo sai, ma Silvia ha un particolare amore per New York e quindi a New York presto ci tornerà per incontrare Drew of the Drew, che è un uomo. Non è un'entità, è un signore proprio che si chiama così, molto colorato, addirittura fluorescente, lo abbiamo già raccontato, bassista, visionario, una bellissima band, e anche lui è un bel ragazzetto. È un bel ragazzetto, ma insomma il quintetto che forma insieme a questa band è anche molto interessante. Il 6 novembre del 2015 è uscito il nuovo album che noi manderemo presto. Questa è una versione di Compatible, di l'album precedente che è uscito nel 2013 e si chiama Green. Soundcheck, il suono della musica. Il suono della tromba di Farnell Newton con Jarrod Lawson e Tony Osier. Il brano era Peace Love di Farnell Newton. Questo è il soundcheck di Radio 24. Siamo ai saluti. Mi dispiace tantissimo che l'incontro con il nostro amico Sergio Mancinelli si chiude qui, ma abbiamo tante altre occasioni che ci vedranno insieme. Molto volentieri, Gegè. Le lancette corrono più velocemente quando si sta bene. È vero, è vero. Poi con la musica, no? Altro che. Senti, ma che cosa ti piace della musica prodotta oggi? Perché tu sei un musicologo, uno storico del rock. Che cosa ascolti? Come te la vai a cercare? Me la vado a cercare curiosando, leggendo giornali musicali, avendo un bel feedback con molti ascoltatori. Sei rimasto uno dei pochi che legge di musica. Sì. E allora quest'estate, ad esempio, il disco di Jimmy LaFave, che conoscevo appena appena, ma insomma 60 anni, e questo disco si chiama The Night Tribe, è suonato come se fosse un disco, che ti posso dire, di un Jackson Browne, di The Band degli anni 70, con una cura strepitosa, e forse quello mi ricorda il suono anche degli anni in cui mi affacciavo a questo lavoro. Ascolto la musica, ne ascolto tanta. Probabilmente quello che mi prende è laddove non c'è l'inseguimento di un successo fine a se stesso, ma qualcuno che ama proprio suonare e senti dentro che quel disco lì possa vendere o non vendere, è davvero un gran bel disco, è quel qualcosa che ti porta in più. E allora, sai, per me il segnale è sempre quello di ascoltare un disco. Quando lo riascolto la seconda volta, se lo riascolto la terza volta, allora sono convinto che per me è pronto per l'airplay. È pronto per l'airplay. Grazie a Silvia Barba. Come va? Grazie a te, è stata una puntata bellissima. Grazie a Silvia, grazie a Sergio Mancinelli. Noi ci risentiamo domani sera alle 19:15. Non posso dimenticare che domani sera ospitiamo qui al Groovemaster Studio il meraviglioso Amin Salim, uno dei migliori contrabbassisti di jazz, ma anche di groove, visto che il nuovo album si intitola The Groove Lab, dove suona sia il contrabbasso che il basso elettrico, con una band strepitosa. Quindi ci faremo raccontare come ha lavorato in studio di registrazione e come vive un musicista di caratura internazionale nel nostro paese, perché oramai in qualche modo è quasi diventato italiano il nostro Amin Salim. Grazie a tutti voi, vi lascio con il sound retro di Catherine Russell. Il brano è bellissimo, si intitola Bring It Back. E Sergio, ti voglio bene. Guarda. Ciao Gegè, ciao Silvia, ciao Soundcheck e ciao Radio 24. Ciao.